Contatto fisico, luci, tecnico, grandissimo, bravo. Il contatto fisico significa dimostrare anche qui l'affetto da un punto di vista tattile. Può darsi che ciascuno di noi non è abituato, perché magari veniamo da famiglie anaffettive. Può succedere che magari qualche over 50 ha avuto, magari, non so, i suoi genitori, contadini delle langhe, insomma, quelli tosti, eccetera, che non erano così inclini, no, agli abbracci, alle carezze, eccetera. E quindi facciamo molta difficoltà da questo punto di vista. Questo è un affetto che è anche per i figli, cioè pare che se un figlio non riceve assolutamente o ne riceve poco, parlando quel linguaggio, di affetto tattile, di abbracci, di strette, forti, di carezze, possa anche pregiudicarsi il suo sviluppo armonioso del carattere, addirittura qualcuno parla anche di equilibrio e quindi anche di disturbi legati a questo genere di cose. Può succedere ovviamente questo, non senza drammatizzare, ma per farvi capire quanto è importante questo genere di affetto. La parte, diciamo, fisica legata all'ossitocina, quell'ormone che è sparso su tutto il nostro corpo con questi recettori, è ovviamente importante per questo. Anche quando noi, non so, incontriamo qualche persona per un lutto, ci piace abbracciarla, così come se una persona non ci dà la mano, magari pensiamo che abbia un rancore nei nostri confronti, quindi pensate quanto è importante anche quella stretta di mano. I politici tendenzialmente stringono mani e sorridono, quindi è ancora più importante la parte fisica del tatto, no? Quindi insomma c'è una dimostrazione, c'è tutto dei contenuti importanti dietro questo linguaggio. Questo significa ovviamente carezzarsi nei suoi capelli, abbracciarsi, tenersi per mano, quindi sforzarsi anche da questo punto di vista. È esattamente questo, niente di più. Quello che succede delle volte è che quando i serbatoi d'amore sono scarichi, si è meno inclini anche a questo genere di affetto. Se parliamo di questo dialetto, ma vedremo che è un dialetto e che non è soltanto questo, no? Perché evidentemente uno ha un serbatoio d'amore talmente scarico che magari non è così poi propenso a ricambiare anche da certi altri punti di vista. Io, mia moglie è più alta di me, è più alta. Quando eravamo fidanzati metteva dei tacchi, quindi era ancora molto più alta di me. E io quando ci andavo in giro gli davo la mano e sembrava quasi che mi stava a portare via dal giardino, dice andiamo su, andiamo a casa. Se poi la pigliavo così dietro le spalle sembrava che stava attaccata a una liana, tipo Cheetah, scimmia di Tarzan. Quindi dico guarda, quando usciamo a zona, insomma ci marchiamo a zona, siamo nella stessa zona, però se stavamo insieme eravamo con l'articolo IL, quindi dico guarda, almeno levate i tacchi, perché sennò faccio una figuraccia. E quindi, sai, io poi il primo impiego, io ho un paio di lauree, una economia e commercio, poi ho preso sociologia. La prima, quando presi la prima, fui assunto ai magazzini Metro e tornai a casa, papà, poliziotto, papà, senti, mi hanno assunto alla Metro, pensa, faranno di me un uomo Metro. Beh, che tu somigliavi di più a tua madre che per la bassa, non avevamo dubbi che poi facciano di te un uomo, insomma ce ne vuole, sarà un'impresa piuttosto difficile, però sono stato sempre un po' traccagnotto. E quindi una sera gli dissi, dico, senti, Emanuele, io stasera invece di fare tutte queste cucine così elaborate, no? Di fare queste cose così, insomma, ecco, la besciamella, famo due panini, una cosa, ecco, voglio dire, veloce, no? Perché così c'abbiamo più tempo, no? Magari, mai capito, c'abbiamo più tempo. Sai, ma a me, a vedette così, guarda, a me, a vedette così, con sto collo taurino, sto corpo si tozzo, a me, guarda, insomma, non sei un Adone, voglio dire, a me, ma perché te la cresce un po' di barba? Te metti un paio d'occhiali, ma io ci vedo. Vabbè, però, ma che questi finti, una vestaglia, uno sguardo più interessante, così che mi guardi un po', ecco, in maniera un po' per obbligo, dico, obbligo, ti devo guardare obbligo. Dice, sì, beh, un po' interessato, fai un occhio particolare, fatti trovare che stai a leggere un libro, fumate una sigaretta, una vestaglia elegante, insomma, a me, a vedete così, a me mi passa la voglia, senti, io esco, va. Ma, sì? Oh, ma, dimmi. Ce l'hai la vestaglia del zio Plinio ancora a casa? Perché? Ma che ce fai? Ma come che ce faccia? Ma oh, non mi hai detto niente, è possibile. La vestaglia è tutta, ma oggi se c'è la vestaglia, bordì. Se non c'è la vestaglia, non bordì più niente. Vabbè, che fai? Ma venga a prendere, fermati, vado a piazza la vestaglia, mi compro un pacchetto di sigarette dei Kim, di quelle lunghe, mai fumato in vita mia. Chiamo i ragazzi, due o tre stavano a casa, che papà, aiutate papà a cavallare le gambe che non gliela faccio da solo, venite qua, datemi una mano, poi rimanete in zona perché se mi dovessi sciogliere vi chiamo. Mi faccio trovare sulla poltrona, mi faccio crescere un po' di barba, mi pio un libro, però purtroppo non mi ero accorto che l'avevo messo originato su questo libro. E quindi, insomma, con questa vestaglia, Faccio così, lei entra, fa. Beh, ma che è sta puzza di fumo? Dico niente, dico, sto a fumare. Ma che mi guardi così, che ti ho fatto? No, io guardo tutti per obbligo. Pure al lavoro cammino come i gamberi, perché oggi si cammina così e si guarda così. Così, ti voglio guardare così perché mi sembri molto interessante. Sì, ma a me mi pare scemo, no, capito, però. E mo sta barba? No, perché sto a riflettere su alcuni autori francesi e quindi. Ma se il libro è rigirato, eh? Sto a ripetere. L'ho rigirato perché sennò dopo quando ripeti lo vedi, no? Invece io lo rigiro e gli faccio, dico, oh, ma chi freghi? E io ripeto senza guardare. E insomma, ecco, a me guarda, a me vedete così. A me vedete così, guarda, con sta barba, sta vestaglia da vecchio. Ma insomma, dico, possibile, da vedete con sto libro, con queste gambe a cavallo. Lasciamo sta, guarda, senti, poi esco. Piuttosto se te vuoi scaricare, batta a fare una corsetta. Te saluto e se ne va. Quindi in buona sostanza, anche da questo punto di vista, io scherzo, gioco, ma può capitare, no? Che lei voglia andare a casa dei genitori e lui magari voglia vedere la partita. Ami il calcio più di quanto ami me, che lui voglia avere rapporti sessuali e lei non gli va e via discorrendo. Questo è quello che capita all'interno delle nostre famiglie, che hanno il più delle volte dei serbatoi d'amore scarichi.